Anche Berlusconi, dopo Tremonti, è favorevole al posto fisso. Brunetta, uno dei pochi contrari, comincia però a preoccuparsi di perdere il suo. Ieri mattina, nonostante un certo mal di testa, pare che si sia presentato al lavoro addirittura con un'ora di anticipo. Più soddisfatto per un ritorno al posto fisso invece Leonardo, l'allenatore del Milan, che stasera con Real Madrid rischia di beccarsi quattro pere. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare.